24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Sergio Nava, bentrovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano le previsioni economiche della Commissione Europea che certificano un'eurozona in recessione. L'Italia tra i paesi dove questa recessione si farà sentire maggiormente. Forte appello alla crescita nelle conclusioni del prossimo Consiglio Europeo, secondo quanto trapela dalle prime indiscrezioni, mentre giunge da Strasburgo una dura condanna all'Italia per i respingimenti dei migranti. Infine, Bruxelles chiede chiarimenti sull'accordo internazionale anticontraffazione ACTA. Recessione moderata. La Commissione europea dichiara ufficialmente l'eurozona in crisi, rivedendo a ribasso le stime di crescita sul 2012, -0,3% quest'anno, 8 decimali meno rispetto alle ultime stime. Il commissario agli affari economici, Olli Rehn, ha precisato che esistono comunque segnali di stabilizzazione. Le cattive notizie riguardano soprattutto l'Italia, che, Grecia e Portogallo a parte, fa registrare la peggiore performance. PIL a -1,3% quest'anno, in netto calo rispetto alla precedente previsione, positiva per un solo decimale. Atene scivola di oltre il 4%, Lisbona di oltre il 3%, mentre la Spagna, -1%, fa meglio di noi. Nell'area euro frena la Germania, che crescerà di un modesto 0,6%, né se la cava meglio la Francia su di soli 4 decimali. Olli Rehn ha colto l'occasione per lodare le riforme introdotte dal governo Monti. Le riforme strutturali intraprese da Roma sono molto robuste e daranno i loro frutti nel corso del semestre, così come tutte le altre politiche per la crescita. Rehn ha sottolineato come la fragilità dei mercati finanziari rappresenti una delle cause del rallentamento della crescita, pur riconoscendo che l'intervento della BCE, che ha incrementato la liquidità per le banche, ha aiutato a stabilizzare la situazione. L'unico indicatore positivo è rappresentato dall'inflazione, in calo al 2,1%, ma in Italia non scenderà, continuando a sfiorare quota 3%. I paesi europei devono proseguire sul cammino dell'austerità, è l'invito rivolto dal presidente della BCE Mario Draghi in un'intervista al Wall Street Journal. Non esiste la possibilità di uno scambio tra le riforme economiche e i programmi di risanamento fiscale, ha detto Draghi. E le previsioni di crescita negativa per l'Italia non inficiano gli obiettivi del nostro paese. Il premier Mario Monti conferma il pareggio di bilancio nel 2013 e aggiunge che non sarà necessaria una manovra aggiuntiva. Grande convergenza e sintonia tra Madrid e Roma per quel che riguarda gli obiettivi europei, una strategia di riforme che aumenti il potenziale di crescita e occupazione è quello che serve, lo hanno sottolineato Monti e l'omologo iberico Mariano Rajoy a Roma. L'economia tedesca può guardare con fiducia al futuro, lo afferma il ministro dell'economia Philippe Rösler commentando il terzo rialzo consecutivo dell'indice IFO che misura la fiducia delle imprese tedesche. Siamo ai mercati, seduta in profondo rosso per Milano che più delle altre piazze continentali paga i ribassi del settore bancario, mentre Parigi registra un -0,01% e Francoforte cede lo 0,5%, a Piazza Affari il FTSE MIB cede l'1,48%. Seduta negativa ieri per le borse europee, con gli operatori piuttosto freddi sull'accordo con la Grecia. Francoforte cede lo 0,9%, Parigi lo 0,4%, Londra praticamente piatta, mentre il FTSE MIB lascia sul terreno lo 0,92%. Sul listino principale di Milano realizzi su diverse banche, a partire da Unicredit, -3,8%, Popolare Emilia Romagna, -5,3% e Intesa San Paolo, -3%. Giù anche Finmeccanica, -5,2% dopo il balzo di ieri. Generali invece rimbalza del 4,1% dopo la promozione di Boffa Merrill Lynch e in virtù del possibile impatto positivo del decreto mille proroghe sulla Solvency 1. Mediobanca +2,7% corre nel giorno dei conti, mentre Fiat +1% avanza sul fermento del settore per la possibile alleanza tra la francese Peugeot e l'americana General Motors. Sul resto del listino balza Fondiaria Assai +4,7% nel giorno in cui il numero uno di AXA, Henri de Castries, ha fatto visita in Mediobanca. Ciò condina da Radio Corp e Radio 24 e Sole 24 Ore. Trapelano già le prime indiscrezioni sugli esiti del prossimo Consiglio europeo a marzo. Gli sforzi fatti finora per favorire la crescita continentale restano insufficienti. È urgente concentrarsi sull'attuazione delle riforme, con particolare attenzione alle misure che hanno un effetto a breve termine sulla crescita. Questo è l'appello dei 27 leader. Il summit lancerà anche un appello ai partner del G20 per raggiungere un accordo sull'aumento delle risorse del Fondo Monetario Internazionale al prossimo meeting dei ministri delle finanze ad aprile. Ennesima riunione straordinaria dell'Eurogruppo dei ministri delle finanze sulla vicenda degli aiuti alla Grecia. Si terrà il 1 marzo, un giorno prima del vertice tra i leader europei. Voltiamo pagina. La Corte europea dei diritti umani di Strasburgo ha condannato l'Italia per i respingimenti verso la Libia.